Da questa sera fino al 13 ottobre la 15ª edizione di Robot Festival, il festival pionieristico di Bologna dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali. Programma tanto inclusivo quanto internazionale, il tema transition, non siamo al move to groove, non è una transizione dalla difesa all'attacco, però è una transizione con tre parole che sono gender, digital and green. Ospite speciale di questa anno sarà la vocalist e composer Lira Pramuk, che è anche autrice del manifesto di questa edizione, e presenterà uno show in esclusiva per Robot. Insomma, di tutto ciò ne abbiamo parlato, questa è la parte così che è omnicomprensiva, un sunto veloce di presentazione per arrivare all'approfondimento con Marco Licurgo, direttore artistico di Robot. Abbiamo ben pensato di saperne di più, per cui ascoltiamo le sue parole. La parola d'ordine è transition, come il manifesto. Naturalmente noi abbiamo provato a portare questo discorso anche naturalmente sulla scelta artistica di quest'anno. Ce n'è per tutti i gusti, naturalmente, così come la declinazione del manifesto va su diversi fronti di transizione, anche dal punto di vista musicale. Naturalmente ci sono diverse anime quest'anno, come sempre dedichiamo il festival sempre di più alla città, in più location. Il festival è sempre più diffuso, per cui anche le atmosfere artistiche sono differenti e sono pensate per pubblici diversi. E partiremo naturalmente giovedì nella Basilica dei Servi con il concerto di Kelly Malone, che è un concerto d'organo. In alcuni momenti ci sarà anche la partecipazione di Stefano Malli, che è il suo compagno, quindi ci saranno diversi brani a quattro mani, sarà ripresentato il nuovo disco che è appena uscito di Kelly Malone. Prima volta per il Robot dentro la Basilica dei Servi, quindi sicuramente un appuntamento per noi molto molto atteso. E per quanto riguarda il percorso delle sedi che sono importanti per il Robot Festival, saranno, come già abbiamo capito, variegate. Ci puoi dire altri appuntamenti e qualcosa a proposito delle sedi concertistiche? Allora, quest'anno abbiamo un altro nuova venue, che è il San Barbaziano, l'ex chiesa di San Barbaziano, dove siamo ecumenici quest'anno. Allora, a me piacciono tantissimo i festival europei, sì, dove ci sono naturalmente delle parti diurne, dove la gente può usufruire di concerti anche in maniera, insomma, più religiosa tra virgolette, come atmosfera che si viene a creare, concerti che vanno anche sull'ambient, quindi più meditativi se vogliamo e più sperimentali. A San Barbaziano abbiamo sicuramente un appuntamento importante con Marta Salogni, che tra l'altro è una delle artiste italiane più richieste al mondo, grandissima produttrice, tra i tanti ha prodotto anche Depeche Mode, giusto per sparare così un nome a caso. Lei verrà a presentare un nuovo lavoro in collaborazione con Francesco Fonassi, che vedrà l'uscita di un disco a brevissimo. Ci sarà anche l'anteprima del concerto di Maria Vuorn con Mats Erlandsson, e anche questo concerto è in esclusiva, in anteprima italiana, anche se l'album è uscito già da un anno. E poi ci sarà un progetto speciale che abbiamo in collaborazione con Cine Glossa, che sono i The Mystification insieme a Devita Mangi. Tutto questo con anche una parte interattiva audio video con il pubblico. Tutto questo avverrà a San Barbaziano. Per concludere la parte diurna, a questo punto svelo anche, insomma, il programma dell'oratorio San Filippo Neri. Ritorniamo per il terzo anno e ci saranno due concerti molto attesi: l'anteprima italiana del nuovo lavoro di Drew McDowell intorno alle 17 appunto all'oratorio San Filippo Neri, e poi l'anteprima assoluta di questo progetto inedito che ha pensato Lira Pramuk appositamente per il festival, e che è anche, diciamo, la sintesi del manifesto che quest'anno è stato scritto proprio da lei, che sarà sempre alle 19 lì all'oratorio San Filippo Neri. Così concludiamo, diciamo, tutta la parte diurna del festival. Sì, come vi ho detto, la presenza di Lira Pramuk, che è autrice del manifesto di questa edizione. Giovedì 10, quindi oggi, la compositrice Kelly Malone eseguirà a Bologna il suo ultimo album in una versione unica. Aggiungo, come state ascoltando, per l'11 invece, cioè domani, Christian Fennez, autore di cui stiamo ascoltando questo field recording, che ha praticate, attuato nella città di Venezia. Presenterà il suo ultimo lavoro ancora con un DJ set e di presentazione per Mosaic. Dopodiché, come vi ho detto, il programma è molto più pratico da consultare ed anche più comodo, in quanto gli appuntamenti sono veramente tantissimi. Il programma di Robot Festival, che è facilmente, per così dire, da recuperare, robotfestival.it, su tutte le piattaforme. Poi certamente vi è la possibilità di informarsi su questa 15ª edizione. Intanto con Marco Ligurgo, che ringrazio per la disponibilità ai microfoni di Radio Città Fujiko, si continua in questa ultima parte di conversazione, conoscendo invece le trasformazioni del Festival Robot in questi 15 anni. Allora, il bilancio dell'esperienza, naturalmente sono stati 15 anni lunghi, abbiamo attraversato tantissime fasi, è cambiato tutto. Se vogliamo, quando siamo partiti noi eravamo fra i primi festival in Italia, naturalmente oggi la parola festival è super diffusa e, per quello che ci riguarda, anche molto inflazionata. Manteniamo le caratteristiche di partenza, cioè dell'essere il nostro obiettivo è sempre stato quello di diffondere la musica elettronica, che all'epoca tra l'altro non era così diffusa, e soprattutto di creare nuovi adepti e nuovi, diciamo, fedeli a quello che è il genere della musica elettronica sperimentale. Il format è un po' cambiato e siamo partiti, naturalmente eravamo anche più giovani, con un certo tipo di indirizzo più club, poi dopo ci siamo spostati invece in una direzione più diffusa. Abbiamo anche avuto un processo in cui siamo diventati un festival enorme da fiera, quindi con oltre 25.000 presenze. Ora invece ci siamo tarati su questo format, che comunque vuole accontentare più venue, più pubblici, e che però non ha una venue enorme. La massima capienza è quella del Dumbo, che sono intorno ai 2000 presenze. Allora, naturalmente il programma poi vive di tutta una parte notturna. Noi abbiamo le due serate al Dumbo, il venerdì sera con l'headliner Richie Otin, ma anche la presenza di Valentina Magaletti, Mary Davidson e vari altri DJ, tra i quali Absami. E poi il sabato, che diciamo è la serata che è già andata sold out, per cui purtroppo non ci sono più biglietti, dove abbiamo Mod Selector, abbiamo Max Cooper che viene a presentare il suo nuovo lavoro, e anche la data di chiusura del tour di Daniela Pes. Concludo con la festa di chiusura domenica pomeriggio al TPO, con una serie di artisti più di ricerca, tra i quali la presentazione del nuovo album di La Musa, Daily Girls, Soft as Snow e Lige Set, commissionato insieme a Dance City di Inziria, back to back con Stefania Boss. Mixare Fennez con Sakamoto, come sto provando in questo momento a proporre per quanto riguarda una playlist che vede Christian Fennez al programma del Festival Robot. Ho voluto portare questa attenzione nelle sonorità di Field Recording, Glitch, Ambient, da un musicista per me, oltre che molto produttivo, anche ricco di talento. Da questo disco, per la label, la Touch Record, stiamo ascoltando Fennez Sakamoto, il disco è Sandre. Thank you. Concludiamo questo Last Minute, altri suoni con Shape APS e con la voce di Elisa Trento. Per quanto riguarda di Shape APS, appunto, per quanto riguarda i diversi appuntamenti collaterali ma altrettanto importanti all'interno del festival di cui vi stiamo dando anticipazione. Siamo alla vigilia dell'edizione 2024 di Robot Festival, iniziamo allora anche con le nostre presentazioni. Siamo in compagnia di Elisa Trento, presidente di Shape APS, che è l'associazione che ha ideato e produce dal 2008 Robot Festival. E oltre anche con eventi paralleli, tutto ciò che può essere un motivo di aggregazione, di incontro. E questa edizione cosa ci puoi dire? Edizione speciale, 15° anniversario del festival, un festival all'insegna della transizione, che è il tema che abbiamo scelto nelle sue declinazioni di transizione di genere, transizione digitale, transizione ambientale. Attorno a questo tema è stato organizzato l'appuntamento chiamato Robot Learn, fatto di una serie di talk, workshop, panel che vadano ad indagare queste tre tematiche, in particolare un workshop di empowerment per donne e persone non binarie legate all'industria musicale, un talk sulla transizione green negli eventi culturali, un talk dove si giocherà con l'intelligenza artificiale per riscrivere le tre leggi della robotica di Asimov, un talk in cui Lyra Pramuk, colei che abbiamo scelto come artista, che ha scritto il manifesto e performerà all'Oratorio San Filippo Neri, dialogherà con Carlotta Petracci di Art Tribune per raccontare il suo approccio alla transizione. Tanti altri appuntamenti, tante venue, 6 venue quest'anno, sì. 6 venue. Abbiamo iniziato con Palazzo Renzo per la preview, toccheremo poi a partire da giovedì la Basilica di Santa Maria dei Servi con un concerto solo d'organo di Cali Malone accompagnata da Stephen O'Malley, l'Oratorio di San Filippo Neri, la Chiesa di San Barbaziano che riaprirà al pubblico in occasione del nostro festival, il Dambo con tutti gli appuntamenti Learn Kids anche dedicati ai bambini e quelli diciamo più notturni, assieme al TPO con una sorta di slancio domenicale che prenderà tutto il pomeriggio fino alla serata di domenica. Dare un'occhiata al programma nel sito robotfestival.it. Grazie e buon festival. Grazie, a voi vi aspettiamo. E termina anche il brano di collaborazione tra Fennez e Sakamoto. E termina anche il nostro esteso Last Minute che in altri suoni ha portato la 15ª edizione di Robot Festival. Quindi tra pochissimo è il momento di entrare in mostra. Lo faremo attraverso la città di Ravenna per I Am a Mosaic. A tra poco sui 103.1 col giovedì e la rubrica Regola d'arte in mostra. Редактор